Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Sono le 16.07, Luca Tremolada al microfono. Oggi giornata campale, innanzitutto perché faremo anche degli aggiornamenti nel corso della trasmissione. Insomma, continua il braccio di ferro di Google con la Cina. L'ultima notizia che è uscita è che i dipendenti appunto di Google in Cina sono andati al cinema gratis, a quanto pare, a quanto emerge, perché la grande multinazionale di Mountain View ha deciso di pagargli il cinema nell'attendere che si risolva questa questione, che è abbastanza grande, non solo perché vede un grandissimo azienda americana che ha detto no, che ha chiesto al governo cinese di indagare, di capire il perché dell'attacco degli hacker. Noi ne abbiamo parlato ampiamente nel corso delle puntate, ma anche perché insomma si sta cercando di capire cosa faranno tutte le altre aziende occidentali che stanno in Cina e se ci sono anche delle reazioni da parte del popolo cinese. Insomma, noi siamo qui, seguiremo anche nei prossimi giorni questi temi, a partire anche da lunedì. Ricordo tra l'altro che da lunedì alle 16.30 andiamo in onda, non alle 16. Detto questo, saluto Giampaolo Colletti che è in collegamento con me. Buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno ai radioascoltatori. E quando sentite il nome di Giampaolo Colletti viene quell'orrida nomignolo che si è inventato, che sono i www worker. Che cosa sono, visto che l'hai inventata tu questa sigla, questo titolo? Però Luca, vorrei liberarti dall'imbarazzo. Possiamo usare anche un altro termine volendo. Allora, decidiamo qua. No, Worldwide Workers, ovvero WW Workers, sono l'acronimo poi in fondo WW Workers, e sono quei lavoratori che hanno scelto di lasciare il posto fisso a tempo determinato o indeterminato per buttarsi in un'attività imprenditoriale, per scommettere sulla loro passione trasformata in professione e utilizzare appunto le nuove tecnologie internet in testa. Sì, tra l'altro tu hai detto che hanno scelto, ma poi di fatto tu sul tuo sito stai raccogliendo tantissime storie, non solo di scelte che nascono da o un'illuminazione o un moto sulla testa, un cambiamento di vita, anche magari da fatti concreti, l'azienda che chiude, un licenziamento, insomma, non sono solo scelte volontarie, mi sembra di capire. Ecco, una cinquantina di storie abbiamo raccolto dalla scorsa settimana, da venerdì scorso, la giornata di lancio di questo progetto. In realtà quasi la metà è anche per necessità. Chi invece ha scelto, quindi per volontà, di diventare un WW Workers, arriva a questa decisione anche con molto tempo, quindi non necessariamente una scelta di getto, insomma si ragiona molto prima di diventare WW Worker. Vogliamo quindi 50 addirittura, quindi vogliamo ricordare subito il sito dove possono contattarti, perché insomma tu sei un po' l'uomo che sta raccogliendo queste storie e le sta raccontando anche. Ecco, il sito, e quindi devo ripetere questo nomignolo, è www.workers.it e c'è una scheda da riempire in cui si può raccontare il proprio percorso, chi per scelta o per necessità lascia il posto fisso e diventa imprenditore di se stesso grazie ad internet. Non si guadagna nulla, non si vince nulla, iscriversi, mettiamolo in chiaro, non c'è nessun premio, insomma conoscerete Giampaolo Colletti, che insomma è una cosa piacevole, però insomma l'obiettivo è quello poi di descrivere un fenomeno, come l'hai definito tu. Sì, l'obiettivo è di tracciare un fenomeno che è anche molto italiano, quasi in barba a chi sostiene insomma che in Italia si è ancorati al posto fisso. Per necessità o per scelta, in qualche modo sembra che questo posto fisso lo si lasci sempre di più. Quindi se ne sono stati iscritti, se ne scrivono un po' di tutti i colori. C'era il momento in cui i giovani erano stati definiti dei bambini, insomma non si esce più fuori di casa, c'era questa visione insomma che descriveva i giovani, poi i giovani già è una parolaccia, però quantomeno insomma le nuove generazioni come persone che non hanno ideali, che fanno fatica, che non vogliono lasciare la mamma, che guardano solo a un posto tutto sommato impiegatizio ministeriale. Dal tuo punto di vista, da quello che stai scoprendo anche grazie al tuo sito, qual è il quadro? in realtà quasi la metà ha un'età molto giovane. Oggi anche in puntata scopriremo che ci sono degli ospiti che non sono bamboccioni, ma che in realtà decidono di diventare dei WW Workers. E poi molte storie, questa è una cosa particolare, arrivano dalla provincia italiana e non dalla metropoli. Questo è un dato interessante, perché in realtà c'è fermento anche sulle nuove tecnologie lontano dai centri metropolitani. Sì, tra l'altro questa era una caratteristica anche che avevamo visto con le TV digitali, con le micro web TV. Insomma, la provincia italiana è sicuramente alle volte più interessante, ma anche più agitata, diciamo. Ecco, la creatività made in Italy la si riscontra nelle piccole borgate anche. In puntata qualcosa lo scoprirai, perché c'è un ospite che arriva, anzi una famiglia che arriva da Cagliari, dal Cagliaritano, insomma una storia interessante. Va bene, allora passiamo subito. Io ho qua due ospiti in studio, Eleonora Fornelli e Alessandro Carenza, buongiorno. Buongiorno. Che tra l'altro sono tesissimi, non si capisce perché. E sentiamo subito la storia di Eleonora Fornelli. Eleonora Fornelli, trentenne nata oltreoceano ma residente a Milano, aveva un problema: stare vicino alle due figlie e barcamenarsi nel lavoro quotidiano. E aveva un sogno: regalare a tante altre mamme del quartiere una struttura ricreativa con tanti giochi per i più piccoli. Eleonora ha trasformato il problema in un'opportunità e il suo sogno in realtà. Ha lasciato il suo posto fisso a tempo indeterminato in una grande azienda del settore delle telecomunicazioni e ha aperto un club, il Club delle Mamme. È diventata nel frattempo mamma per la terza volta e imprenditrice factotum. Faccio un lavoro che non esisteva, aiutando altre mamme e stando contemporaneamente con le mie bambine, racconta Eleonora. La retribuzione attesa è di 1.500 euro al mese, ma il valore va molto oltre quella cifra. Vorrei sensibilizzare la mia città nei confronti della categoria delle mamme. Eleonora è una mamma WW Workers. La sua storia è su www.wwworkers.it. Sono multitasking, imprenditrice sempre di corsa, costantemente connessa con PC e cellulare. E soprattutto felice d'aver abbandonato le pochette per sostituirle con borsoni pieni di pannolini, racconta Eleonora. Oggi il suo Club delle Mamme ha una sede nel cuore di Milano, ma è anche raggiungibile da ogni parte del mondo, cliccando su www.ilclubdellemamme.com. Allora, Eleonora, tutto vero innanzitutto, sì. Ci sono delle imprecisioni. Oh, attenzione, perché Colletti è, che è l'autore della scheda. Vediamo quali sono le imprecisioni, se sono di sostanza o di forma, soprattutto. Entrambe le cose. Diciamo che il Club delle Mamme nasce come idea, perché quando ho avuto la mia seconda figlia mi sono sentita un po' come uno scoglio con una cozza attaccata nel mezzo dell'oceano. Per assurdo, vivendo in una città con milioni di persone, non avevo nessuno con cui confrontarmi, scambiare quattro parole, e vivevo la mia giornata con la più piccola attaccata. Come una cozza. Come una cozza, esattamente. Da lì è iniziata a nascere in me la volontà di fare realmente qualcosa, visto che dalla mia esperienza sono cresciuta tra il Brasile e gli Stati Uniti, ho visto che l'essere mamma non vuol dire necessariamente stare a casa da sole a far la calza. Anzi, questo dice all'estero. Questo all'estero, cioè all'estero in tante realtà l'essere mamma diventa una possibilità per dare sfogo alla propria creatività e confrontarsi con altre donne che hanno esperienze diverse dalla propria. Quindi ho iniziato a vedere se a Milano esisteva un posto che potesse rispondere alle mie necessità. Ahimè, ho visto che non c'era. Da lì è iniziato il sogno di creare questo Club delle Mamme, che non vuole essere, come detto nella scheda, un posto pieno di giochi e di colori per i bambini. Ma però vuole non è essere. Brutto, però, no, però il concetto cardine dell'associazione Club delle Mamme è di dare una seconda casa a tutte le donne che sono diventate mamme. Non una ludoteca o un baby parking, ma un posto dove mentre sei in maternità puoi venire e pensare a te come donna, quindi fare ginnastica portandoti il bambino, tant'è che facciamo un corso che si chiama Tornare in forma col baby wearing, dove utilizzi il bambino come peso piuttosto che avere informazioni. Cioè, allora, io sono, non sono nulla. Non sei una mamma, intanto. No, questo qua è, lo possiamo confermare. Okay. Diciamo che una delle necessità primarie che la donna sente normalmente quando partorisce è di tornare in forma, giustamente di riappropriarsi del proprio corpo. Questo non sempre è possibile, perché ci si sente sempre in colpa l'idea di lasciare il bambino a casa da solo per pensare a se stesse. Al Club delle Mamme puoi venire a fare ginnastica insieme al tuo bambino, rendendolo partecipe, parte attiva della tua attività fisica. Al Club delle Mamme ci sono anche tante attività di informazione, perché se il primo obiettivo dell'associazione è combattere la solitudine che vivono le neomamme di Milano, il secondo è dare informazione a 360 gradi su tutti gli argomenti che riguardano la maternità, che vanno dai propri diritti per quanto riguarda il lavoro, quindi ci sono i legali del lavoro, ai nutrizionisti che ti parlano magari di dieta macrobiotica anziché lo classico svezzamento dai 6 mesi in poi, piuttosto che far chiarezza una volta per tutte su cosa vuol dire partorire nel rispetto della fisiologia del parto o allattare e così via. Meno male che mi avevi detto che eri emozionata, eh? Sono 3 minuti netti. No, perché però, le cose da dire sono tante. No, l'ho intuito subito, ma mentre stava a capire il passaggio, cioè nel momento in cui tu hai lasciato un impiego, un mestiere. Sì. Io ho deciso di lasciare il mio posto indeterminato, che tra l'altro era il posto che avevo atteso. Detto così sembra che un posto che non si determina bene, un posto a tempo indeterminato. Un posto a tempo indeterminato, io mi occupavo di marketing communication, organizzavo eventi, viaggiavo, era il lavoro che volevo fare da quando mi sono laureata. Mi sono resa conto però che non era conciliabile col fatto di avere dei figli e non ero disposta a rinunciare a vedere i miei figli crescere, fare i primi passi, piuttosto che accompagnarli ogni tanto al pomeriggio alle feste degli amici per lavorare. Che nel momento in cui sono diventata mamma la mia scala di valore è cambiata. E da lì, quando ho iniziato a vedere, l'associazione è andata in modo molto spontaneo. La prima cosa che abbiamo fatto è stato avvalerci del grande aiuto di internet creando il sito www.credelemamme.com. Da cui abbiamo iniziato ad avere una serie di riscontri positivi dalle altre mamme. Quindi ho iniziato a vedere che questo sogno non era un'utopia. Una domanda, cioè prima di internet, cioè nel senso che molte di queste storie che Giampaolo ci racconta passano in un qualche modo per la rete, non sono storie digitali, nel senso che la tua è una storia molto concreta, per cui hai creato questo club, hai creato questa associazione per dare un aiuto assolutamente reale, e internet in un certo qual modo è, nel tuo caso, dimmi se sto dicendo una stupidata, è un mezzo per far conoscere, per sollevare un problema, o è uno strumento per di business? Cioè, tu come lo stai usando in questo momento la rete? Principalmente come mezzo di comunicazione. Lo step che stiamo per fare è aprire un forum, ma per dare la possibilità alle mamme che si conoscono già vis-à-vis all'interno del club di continuare a parlare anche fuori, perché il club è nato un po' in risposta ai numerosissimi forum che ci sono riguardanti le donne incinte, le mamme, eccetera. Cioè, perché quella è la vera origine di tutto, cioè nel senso che di fatto una mamma oggi che cosa fa? Si connette in un momento di estrema solitudine, si connette in rete e trova confronto con altre mamme tramite il web. Quello che per te è andata così, nel sì, senso sì, che io la mia prima gravidanza l'ho trascorsa praticamente collegata a internet, e le mie amiche di pancia cosiddette quando ero incinta sono diventate le mie migliori amiche, le sento quotidianamente anche oggi. Però l'idea del Club delle Mamme era proprio di dare una forma fisica al confronto, cioè il fatto di vivo a Milano, possibile che non ci sia un posto dove posso parlare, vedere qualcuno, scambiare informazioni. Tra l'altro noi abbiamo raccontato molte storie di questo tipo dove la reazione è anche quella di scrivere un blog, di raccontarsi, ci sono n modi di, però tutte passano da una tastiera, un video e insomma una richiesta di aiuto che passa attraverso un monitor di un PC, e questa è la cosa che a me da un certo punto di vista ha un po' colpito, perché sono tante queste richieste. Poi nel tuo caso hanno avuto come espressione quella di formare un'associazione, creare un luogo fisico dove dare supporto, in certi altri casi sono stati invece esperimenti di creatività, per cui le donne che scoprono la possibilità attraverso internet di esprimersi. Assolutamente, diciamo che quello che io penso realmente è che a volte un abbraccio può darti molto più sollievo di tantissime parole. E un abbraccio virtuale non fa lo stesso effetto che non un abbraccio avuto sul serio. Che cosa è che ti ha fatto arrabbiare finora? Cioè tutto a posto, tutto perfetto, va tutto bene? No, assolutamente no. Immaginavo, cioè l'ho chiesto perché lo immaginavo, lo leggevo nello sguardo. No, tutto bene no, nel senso che il concetto che ci sia un posto come un club dedicato alle donne che sono diventate mamme ma che vogliono continuare a sentirsi donne fa specie. Nel senso che tutte le mamme sotto vogliono tornare a sentirsi anche donne, punto. Però pochissime hanno il coraggio di dirlo, perché viviamo ancora in una cultura dove essere mamma è la cosa più bella del mondo e deve appagarti a 360 gradi. Lo fa in tantissimi aspetti. Io ho 3 figli, quindi se non pensassi che la cosa più bella del mondo è avere bambini, non sarei stata così recidiva. Però credo che non sia neanche giusto sentirsi penalizzate da tanti altri punti di vista e dimenticare l'essere donna, insomma. 824-0024, se ci sono dei www workers in ascolto, se c'è, ci sono persone che non credono a queste storie, non credo che esista questa esigenza, crede che forse viviamo in una società assolutamente perfetta, forse è anche una società perfetta, non lo so, vediamo di capirlo, magari non è questo il punto. Oppure scrivete al 349-238-6666. Ma Gianpaolo Colletti, queste esperienze che cosa dicono? Che forse c'è una mancanza della società civile, ci sono dei buchi grossi come delle case? Ma anche dal racconto di Eleonora, che è una mamma tosta, in realtà si capisce, si percepisce che c'è questa volontà di coniugare vita lavorativa e vita personale, vita privata, quello che un po' nella cultura dell'impresa si parla di work-life balance. In realtà le imprese cercano già di fare questo, se uno diventa in qualche modo workers se lo fa in casa. Quello che mi ha colpito della storia di Eleonora è che in realtà riesce a coniugare lo stare vicino alle figliole con un'attività imprenditoriale che in qualche modo passa per la rete, però arriva in un luogo fisico, quindi una sede, una struttura, e questo è un dato particolare per una storia di workers. Guarda, io ho una SMS: congratulazioni al mondo delle mamme, sono un neopapà di Milano e come al solito il privato, tra virgolette, attivo si sostituisce ai doveri dello Stato. Ma insomma, non dovrebbe essere così, però alle volte accade, forse anche un bene. Da un certo punto di vista, una storia che invece ha poco a che fare con lo stare in casa, anzi è l'opposto dello stare in casa, è quella di Alessandro Carenza. Buongiorno. Buongiorno. Sentiamo la scheda che ha realizzato Coletti e poi torniamo a stare. I più fedeli amici di Alessandro Carenza sono a quattro zampe. E ai suoi 2 cani, che Alessandro deve tanto, sicuramente il suo attuale lavoro da WWWorkers. Grazie a loro ha capito cosa avrebbe voluto fare. Così Alessandro, 22enne milanese, diplomato in tecnologie alimentari, ha lasciato il suo posto fisso come receptionist in una grande azienda italiana e ha iniziato a passeggiare per la città. Non da solo, con altri cani al seguito. Alessandro fa il dog sitter e scorrazza cani di tutte le razze e le taglie per i parchi cittadini, oppure li porta dal veterinario, o ancora li accudisce per un intero weekend. Alla passione, Alessandro ha unito anche una preparazione certificata. È diventato istruttore cinofilo per l'educazione di base e avanzata. Offre il suo servizio per gli animali a quattro zampe di Milano e provincia. E la crisi non si sente, afferma con soddisfazione Alessandro, che ha visto quadruplicare in un anno i suoi contatti grazie alla rete. Il lavoro lo trova su internet. La sua vetrina è www.baubau.biz. Online i padroni dei cani lo contattano. Offro una disponibilità 24 ore, 7 giorni su 7 e una risposta immediata, dice Alessandro, costantemente connesso, almeno 8 ore al giorno. Anche la sua storia è su www.vvworkers.it. Allora, prima di tutto, buongiorno ancora una volta, ma quanto costa portare giù il... cioè, quanto si paga per portare giù il cane? Ma il prezzo varia da cane a cane, da tipologia di uscita, comunque possiamo dire che in media è intorno ai 10 euro all'ora. Ah, ok. Beh, ammazza. Sì, sì. Però il cane è felice. Ovvio, il cane è seguito da persone preparate nel mio caso. E è felice, scarica quello che sono le energie, fa stare meglio anche la famiglia, perché poi magari... Anche perché tu sei, io lo dico perché chiaramente gli ascoltatori non lo sanno, sei sicuramente il ritratto della felicità, cioè così guardandoti, nel senso che... Sono molto felice, hai svoltato, come si dice a Roma. Hai svoltato anche perché mi racconti bene la tua storia, cioè tu partivi da una situazione che assolutamente non ti piaceva. Sì, non mi piaceva, non mi apparteneva. Ero assunto, seppur a tempo indeterminato, presso questa grossa azienda italiana, però facevo un lavoro che di fatto non mi soddisfava e non mi piaceva. Da qui una sera, come tante altre, parlando del più e del meno con un amico, lavoro, mica lavoro, eccetera, la decisione di iniziare a lavorare con i cani. Tu ti mantieni? Cioè sì. La domanda che sì, sta sì. arrivando via SMS, ti mantieni tranquillamente? Io mi mantengo tranquillamente. Hai uno stipendio che... Io lavoro con partita IVA e il mio stipendio varia dai 1.500 ai 2.000 euro al mese. Cioè... Lavorando quanto? Cioè quanto... Cioè quanto, quanti giorni a settimana, insomma, allora, si crea della diciamo concorrenza che anche... nel momento in cui ho iniziato lavoravo sempre, nel senso che mosso probabilmente un po' dalla passione, un po' dall'emozione di iniziare un'attività in proprio, davo la mia disponibilità sempre, comunque ero da solo, ma mi piaceva così. Ora man mano che mi occupo poi più dell'aspetto educativo del cane, tendo a lavorare un po' di meno, però ovvio dedico parte della mia giornata alla mia preparazione, allo studio. E infatti adesso poi andiamo a capire anche questa seconda parte, che è relativa all'addestramento, che forse certo. è anche più strategica. Nova Lab 24. Bentornati, 16.32, Luca Tremolada, sono qui con Alessandro Carenza di baobao.biz, cioè... esce da una situazione di un lavoro a tempo indeterminato che non gli aggrada, molla tutto, inventa un sito e insomma porta a spasso i cani, li educa. Lui è anche, mi dicevi, tu sei anche, hai studiato? Sì, ho frequentato una scuola cinofila presso la quale sono diventato istruttore cinofilo. E diciamo che la parte guadagna bene, infatti stavo commentando che eravamo molto contenti certo. per te, ma la domanda però, anche perché credo che la più che portare a spasso i cani sia il fatto dell'educazione, o la fonte economica principale, il fatto che a Milano, perché tu sei su Milano, a Milano molti padroni di casa non hanno il tempo di portare giù la propria bestiolina. Paradossalmente e potenzialmente si guadagna di più con il servizio di dog sitting che non con quello di educazione e istruzione. Quindi fategli concorrenza. Io ho in collegamento Alessandro da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Quindi anche lei è un www.workers? Ah, diciamo che io mi sto preparando a diventarlo, nel senso che... attualmente sono ancora impiegato a tempo indeterminato, però diciamo che circa un anno fa mi è venuta appunto l'idea di creare un sito internet dedicato alla ricerca, diciamo, dell'anima gemella, comunque di una persona, un'amicizia particolare su internet. Quindi che però, per gli incontri, per favorire gli incontri. Sì, però che fosse basato comunque su un sistema di garanzia, nel senso che poi facendo un'analisi ho verificato che soprattutto il pubblico femminile ha paura di incontrare fisicamente qualcuno che conosce su internet. Ma anche il pubblico maschile, eh? non pensare. Sì, infatti io diciamo che ho dotato sostanzialmente il sito di un tipo la posizione di feedback, quindi gli utenti possono apporre un determinato feedback che sostanzialmente è un parere sul comportamento che l'utente con il quale appunto si è stretta l'amicizia o la relazione Insomma, quello che però ha più feedback, diciamo che è quello che ha avuto più avventure, per cui se è vero che è una garanzia, che non è un mostro, è anche uno che insomma si diverte molto, no? Sì, beh, diciamo anche che si basa proprio sul rapporto anche che si ha sul web, cioè quindi sul comportamento che si ha con gli altri utenti. Certo. Quindi hai già un nome, Alessandro? Hai già in mente un nome? Per il sito? Sì. No, il sito è già funzionante, si chiama caruboflove.com. Ok. Quindi ecco, questo è l'aspetto innovativo. Ritornando all'argomento, diciamo che mi sto valutando un insieme di cose per poi effettivamente mettermi in proprio e quindi abbandonare il lavoro a tempo indeterminato. che soprattutto per persone che hanno come noi, quindi che hanno queste idee, rappresenta un po' una sorta di, tra virgolette, di galera, ecco. Ecco, infatti questo era un po' l'aspetto che volevo adesso approfondire. Ti ringrazio Alessandro, mi raccomando scrivi a Giampaolo Colletti che insomma sta facendo uno studio sociologico, lo chiedo anche a voi, anche perché poi la maggior parte degli sms che stanno arrivando puntano molto sull'aspetto economico. Voi siete partiti mettendo via dei soldi, cioè nel momento in cui si lascia un lavoro a tempo indeterminato, insomma è un salto nel vuoto. È vero che è una galera, come diceva l'ascoltatore, però è anche da un punto di vista economico un salto nel vuoto. Nel mio caso non c'è stato un investimento iniziale, quindi non ho avuto bisogno di nessun tipo di capitale di partenza, chiamiamolo così. Nel senso che tu hai messo sul sito. Io ho messo sul sito. Come un libero professionista, esatto. Sono qui sul mercato. E poi soprattutto ho avuto la fortuna di essere aiutato da un amico che mi ha fatto il sito, esempio, il sito gratuitamente. Quindi una serie di... cioè ci sono dei costi iniziali di partenza, poi uno se li gestisce un attimo, insomma. Eleonora Fornelli. Sospiro. Allora, sì, sospiro, perché come dicevo prima l'associazione è nata per rispondere a un'esigenza personale. All'epoca non c'erano i dindini per pensare di aprire una sede e anche non c'era l'idea proprio anche di aprire una sede, è nato tutto con lo svolgersi e l'evolversi di questa avventura. Inizialmente no, non è stato richiesto nessun tipo di budget iniziale, anche perché noi abbiamo iniziato a fare le feste di via, che per le associazioni sono gratuite. Sicuramente tantissima voglia di fare e tirar sulla testa ogni volta che sembrava che la cosa non potesse avere successo, questo sì. Poi quando abbiamo deciso di aprire la sede, allora sì, per forza di cose nessuno regala nulla, quindi l'affitto va pagato. Andiamo in Sardegna, Franca Cuncas, buongiorno. Buonasera a lei. Buonasera, anzi buon pomeriggio, buonasera. Sentiamo la sua storia nella scheda. Franca ed Emilio Cuncas sono sposati da 30 anni e hanno un amore viscerale per la loro terra. Vivono a Gergei, 70 km da Cagliari, 1500 abitanti e 60 famiglie di pastori. Ma la loro è quella più tecnologica. Franca ed Emilio sono diventati WW Workers. E la loro storia è su www.wwworkers.it. Dopo 20 anni alle dipendenze di un altro pastore e imprenditore del posto, hanno deciso di mettersi in proprio e anche di raccontarsi su internet, aprendo una micro web TV con servizio di e-commerce. Oggi la famiglia Cuncas ha 100 pecore. Emilio pascola il gregge su 20 ettari vicino a casa. Franca e i 4 figlioli curano il sito internet e le spedizioni. Su www.sardiniafarm.com si può adottare una pecora. In cambio di un versamento economico di 390 euro, è possibile ricevere 4 forme di pecorino, oppure 2 ceste di prodotti tipici con olio, vino, mirto e i dolci cucinati dalla signora Franca. Abbiamo deciso di investire sulle nuove tecnologie, quasi per una scelta obbligata. Il costo del latte per noi produttori è di 30 centesimi, come 30 anni fa. Grazie ad internet, oggi lo riusciamo a vendere a 80 centesimi al litro. Chi fa l'acquisto online può scegliere anche il nome della pecora e la può seguire nel videoblog di Emilio. Dal virtuale al reale. Ogni cliente può recarsi quando vuole sul posto per seguire le fasi del ciclo dell'allevamento. Voi avete trovato l'America con internet? Sì, per noi era lontana come l'America, non... Non immaginavamo certo di arrivare così lontano. Ma lì l'idea chi è che l'ha avuta? Lei o suo marito? Ma le direi più i ragazzi, essendo giovani, usando il computer. E un po' si sono scontrati con Emilio, perché lui rappresenta la tradizione e il lavoro antico che è quello del pastore. Quindi per un po' sono stati a parlarne e alla fine l'hanno spuntata loro. Ed è andata bene, ma adesso siete una piccola, cioè siete un po' a metà strada, siete da un lato un gruppo come Amazon perché fate commercio elettronico, dall'altro siete un po' Mediaset perché fate anche della televisione. Cioè, qual è il prossimo passo? Nel senso, ormai adesso raccontate un luogo, fate del commercio elettronico tranquillamente e vi raccontate con la telecamera. In futuro che cosa c'è? Io penso che il prossimo passo sia farvi conoscere la Sardegna, perché è meravigliosa. Ah, magari, quindi anche magari provider di turismo. Gianpaolo Colletti, loro sono bravi, cioè, però non sono bravi, sono imprenditori veri questi. Hanno scommesso poi sul territorio, cioè la forza di WW Workers è che si valorizzano anche del territorio. E l'altra cosa particolare, a chi pone problemi economici? Beh, si diventa WW Workers perché si gioca sulle proprie passioni, quindi un po' si mettono da parte gli orari da cartellino e si lavora anche il sabato e la domenica, nei weekend e anche dopo il classico orario di lavoro, perché in realtà la forza del WW Workers è giocare sulle proprie passioni. Sì, tra l'altro stiamo ricevendo anche un po' di sms dai taxisti che giustamente dicono: io mi sono licenziato da dipendente pubblico, capisco benissimo il ragazzo dog sitter perché mi sentivo svuotato e insoddisfatto, da 6 anni lavoro per me. Cioè, quindi c'è anche il passaggio imprenditoriale da questo punto di vista, cioè il fatto di cominciare a essere protagonista, indipendente. Però attenzione, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, il passo è graduale e soprattutto i primi alleati sono gli amici e la famiglia, quindi avere delle reti di protezione prima di fare un passo e diventare WW Workers. Sì, tra l'altro mi stai dicendo di sì con la testa, cioè la rete, la famiglia, per te è fondamentale questo per passaggio. Me assolutamente, se non avessi avuto un marito che mi ha supportato e che continua con santa pazienza a supportarmi e degli amici che hanno creduto nel progetto. Supportarmi e supportarmi. Entrambe le cose. E degli amici validissimi con una grande professionalità alle spalle che mi hanno aiutato a creare il sito, a diffondere la voce e successivamente le mamme con cui si sta creando veramente una rete sociale e che danno il proprio know-how a disposizione dell'associazione, sarebbe rimasto un sogno nel cassetto, non avrebbe avuto il successo. Conta che il sta fatto avendo di averla fatta a Milano questa esperienza, cioè credo in una sì. Grande città, quindi in un grande centro, perché poi è vero che la storia della signora Franca Kunkers è una storia che si appoggia sulla provincia, quando invece si ragiona sulle città è molto spesso, ma dimmi Colletti se sto dicendo una stupidata, c'è proprio l'esigenza di non stare da soli e di creare un gruppo, un'associazione, un movimento, rispondere a dei bisogni che sono estremamente diversi. Il dog sitter per esempio è chiaro che è qualche cosa che probabilmente in una provincia non c'è come esigenza. Dalle prime storie che stiamo mappando, in realtà in provincia c'è più la valorizzazione del territorio, quindi il basarsi su spaccati territoriali, invece nella metropoli ci si basa sulla micro community, su amici, parenti, fedeli consiglieri, ecco, quindi la community anche territoriale, nella metropoli si realizza questo. Ecco, adesso noi raccontiamo invece più che di una metropoli, di un'altra realtà che insomma non è nuovissima, che è quella di eBay e che forse per la prima volta in un certo senso sdoganato queste figure di persone che a un certo punto hanno deciso di affacciarsi sulla rete. Nova Lab 24. Bentornati, 16.45, abbiamo raccontato un po' di storie di lavoratori che insomma hanno incrociato internet, hanno cambiato vita, si sono detti si può fare come nel famoso film e ci stanno provando, e adesso proviamo a sviluppare un po' quello che è successo intorno a eBay. eBay è un sito d'asta famoso, cioè in tutto il mondo, e circa un paio di anni fa ha cominciato a sdoganare dei negozi virtuali, dei negozi, anzi delle figure insomma di persone che a un certo punto hanno voluto aprire su eBay il proprio luogo di commercio elettronico. Sentiamo però una scheda che ci fa capire i numeri e l'importanza di questo sito. Ad oggi la comunità di eBay conta 5 milioni di utenti registrati e in Italia è al primo posto tra i portali di e-commerce. Il progetto, nato nel 1995, è online nel nostro paese dal 15 gennaio 2001. Qui da noi gli imprenditori che gestiscono attività professionali su eBay sono circa 18.000 e le loro vendite negli ultimi 12 mesi hanno generato un giro d'affari per oltre 270 milioni di euro. Presenza rilevante del gentil sesso. Sono oltre 5.000 i negozi online in rosa. L'enogastronomia viene venduta soprattutto dai titolari di negozi online presenti in Umbria e Marche. In Emilia-Romagna viene venduto il 71% dei vini rossi italiani. Se in Friuli trionfano i negozi di strumenti musicali, In Puglia si affermano quelli di vendite high-tech, con iPod e lettori MP3 in testa. Parte del successo dell'Italia nel business sul web è dovuto alle esportazioni. Insomma, il Made in Italy nel mondo è una delle chiavi di successo per i WW Workers nostrani. Allora, abbiamo in collegamento Anna Ferrario, nome utente DID Iperaffari, giusto? Sì, giusto. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. La tua è la storia di una mamma. Sì, esatto. Io ho cominciato nel lontano 2005, quando ho saputo di aspettare un bambino, quindi come la signora di prima, mi è nata l'esigenza di trovare un lavoro che mi permettesse di stare accanto a mio figlio, crescerlo e vivermi tutte quelle emozioni che può dare solo un bambino. E quindi da lavoratrice dipendente poi sono diventata imprenditrice su eBay, aprendo questo negozio per affari, dove abbiamo cominciato inizialmente a vendere prodotti tecnologici, quindi informatica, computer, telefonia. Ecco, ma perché eBay, cioè perché internet, perché scegliere la vendita online? La vendita online perché si sta a casa, cioè prima di tutto perché si può fare da qualsiasi parte del mondo, si può operare, quindi non è necessario dover alzarsi tutte le mattine, andare in un ufficio, timbrare il cartellino, per così dire. eBay poi vabbè, soprattutto perché anche a livello di costi, nel senso, gestire un negozio fisico aperto al pubblico prevede necessariamente maggiori fondi per iniziare. Quanto vi chiede eBay per commerciare, per stare lì? Sto leggendo un po' di SMS. Mi chiede in senso di tempo o di... Sì, che cosa vi chiede in cambio dell'ospitalità? Ah, beh, eBay ovviamente si fa pagare. Ogni inserzione che viene pubblicata sul sito ha un costo e ogni vendita che viene effettuata c'è quella che viene chiamata commissione sul valore finale, quindi sul prezzo di vendita c'è una commissione che eBay trattiene. Però è un... cioè, la scelta di eBay è stata... voglio dire, eBay, come dicevo anche prima, il servizio è il sito di vendita online più conosciuto al mondo proprio, quindi è assolutamente la scelta migliore che si potesse fare. Fatturato? Dunque, nell'anno scorso, o meglio 2008, perché ora siamo già nel 2010, abbiamo superato i 500.000 euro. Nel 2009 credo che... riusciremo a stare nel, probabilmente anche aumentare, a superare quel fatturato, ma in linea di massima è stabile. Abbiamo il mese di dicembre di quest'anno rispetto al mese di dicembre dell'anno scorso avuto un incremento notevole. Insomma, voi non vi muovete da lì, restate su eBay, insomma, è stata la scelta. Assolutamente sì, c'è anche un, cioè, uno può anche avere parallelamente un sito personale, però eBay è sicuramente il modo migliore per vendere anche in tutto il mondo, cioè noi vendiamo anche all'estero, quindi con un sito personale è difficile che dall'estero riescano a trovarti, invece su eBay ti trovano dappertutto. Ma lì il tema è quello del prezzo, perché poi nel senso che su eBay deve necessariamente costare meno. Sì, per riuscire a vendere su eBay bisogna avere dei prezzi ottimi, noi fortunatamente riusciamo quasi sempre ad avere i prezzi migliori, quindi... Ma come i prezzi migliori perché? Perché non avete un negozio fisico sostanzialmente. I prezzi migliori dipendono prima di tutto dal fornitore, quindi dal prezzo d'origine, il nostro pezzo di costo, e poi sicuramente ridurre al minimo i costi variabili, quindi ovviamente avere un negozio fisico prevede un affitto. E hai visto dei dog sitter su eBay? Non ho mai avuto modo di verificare questa cosa. Ho un cane anch'io, ma non ho bisogno del dog sitter, quindi no perché ce l'abbiamo mai... in studio noi, allora lui... ho sentito prima, però non so sinceramente se su eBay esista una categoria di questo tipo. Penso anche di sì, perché su eBay può vendere di tutto e offrire di tutto, quindi magari sì, però sicuramente non c'è l'esperienza della signora Franca Kunkas che dà in affitto le pecore. Questo qua ce l'ha solo lei, questo sicuramente sì. È difficile avere un'esperienza come quella. Ma quella è bellissima, peraltro, quella sì. Comunque è molto le supera tutte. Tatiana Granato è in linea? Sì, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, ci racconta la sua storia. Anche lei è, insomma, non ha fatto la scelta di vivere, insomma, indipendentemente su internet, si occupa di commercio elettronico e ha scelto di farlo su eBay. Esatto, noi non, io non ho scelto eBay come lavoro, ma aia, si sente. Aia, no, è andata via. È partita la comunicazione. Progetto di andare su eBay? No, a te non interessa. No, non. È il tuo sito. Sì. Anzi, non devo pagare nessuno, non rendo conto a nessuno. Utilizzo Google per farmi pubblicità, questo sì. Però è tutt'altra cosa, nel senso che è un servizio pubblicitario offerto da Google. Cioè, quindi compri le parole sostanzialmente. Sì, puoi spiegare in due secondi come funziona e quanto costa? Diciamo che il vantaggio di questa modalità di farsi pubblicità è che tu paghi solamente il click. Quindi tu compri, stabilisci un budget giornaliero. Tu nel tuo caso cosa hai fatto? Hai scelto dog sitter? Dog sitter, addestramento cani, piuttosto che educazione cinofila a Milano, svariate parole, io ho 200 termini all'interno della in memoria, insomma, e decidi la zona sulla quale andare a lavorare, quindi nel mio caso Milano e provincia, e tutti quindi i milanesi che digitano su Google addestramento cani trovano il mio sito tra i link sponsorizzati in prima pagina. Quanto ti costa? Io so che continuo a chiedere questo, ma poi di fatto credo che la parte economica sia l'aspetto più da indagare nel momento in cui si compiono determinate scelte. In media siamo intorno ai 400 euro al mese di pubblicità. Ah, beh. Per Google. Per cui tu decidi di stanziare questo budget e sai che la maggior parte dei tuoi clienti ti intercetta attraverso il passaparola. Facevo proprio l'altro giorno due conti, eccetera, e notavo che l'80% delle persone che mi contattano attraverso il web e in particolare attraverso questa forma di pubblicità su Google. Quindi neanche da dire la zona, la provincia. Giampaolo Colletti, vedi che in questo caso cambia un po' tutto, cioè proprio è internet la chiave di conoscenza. Storie che ci sono arrivate sul sito, in realtà si evidenzia come molti investano adesso, diventano davvero dei promotori di marketing di se stessi, quelli che un noto pubblicitario inglese ha definito global micro brand. In qualche modo Alessandra, Eleonora e anche le storie di eBay, del negozio online, diventano dei global micro brand. Si investe in rete anche poche centinaia di euro per un ritorno economico per un servizio. Sì, che l'unico tema è quello che chiaramente il commercio elettronico in un paese come l'Italia è legato dalla struttura delle infrastrutture, quindi dalla logistica. Questo è un problema. L'Italia è fatta strana, è lunga, c'ha le montagne, la maggior parte del trasporto viaggia su gomma, c'è pochissimo trasporto sui treni. È lì un paradosso. Tra l'altro mi viene da dire che la forza davvero lì in quel commercio online è la credibilità della community. Con eBay c'è questo, ma in realtà davvero la forza di una community ricorrente. E lì forse interagisce anche il passaparola, perché in realtà poi questo passaparola non lo dobbiamo dimenticare. Sì, c'è la pubblicità online, però molto arriva anche da quello che il proprio brand riesce a veicolare. Immagino che Alessandro ed Eleonora sfruttino la propria rete di contatti anche online. Tatiana, sei tornata tra noi? Sì, buon pomeriggio. Si sente meglio, abbiamo un minuto, raccontaci il succo, l'essenza della tua storia. Allora, il nostro negozio su eBay nasce nel 2001, proprio quando nasce eBay in Italia. E non nasce come un vero lavoro, ma nasce da una passione per lo shopping e per la moda. Ah, da cioè? Da una passione che una ragazzina aveva per la moda, cioè il mio guardaroba era sempre invaso di abiti, borse, scarpe che non mettevo più, e quindi decidemmo di provare su eBay a svendere quello che rimaneva spesso non indossato in guardaroba. Quindi è un modo, cioè si vende l'usato sostanzialmente? Sì, esatto, all'inizio è nato così, poi le richieste aumentavano sempre più e quindi abbiamo provato ad investire e ad aprire un negozio su eBay, registrare partita IVA, insomma aprire un negozio reale ma virtuale. E funziona? Funziona, sì. Ma qual è il passaggio dopo? È quello di diventare stilisti? Non ho capito. Il passaggio dopo magari è essere stilisti? No? Sì, sicuramente un franchising. Vabbè, no, è già un franchise, andiamo benissimo. Grazie Tatiana Granato, io ringrazio Anna Ferrario, ringrazio Franca Cuncas, ringrazio Giampaolo Colletti, ringrazio gli ospiti in studio. Noi ci sentiamo lunedì, mi raccomando, alle 16:30.